in primo piano. È il giorno in cui le borse ieri hanno reagito molto bene al piano di salvataggio dell'Unione Europea. E allora, BCE compra i bond, borse record, è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Tremonti, così abbiamo evitato la catastrofe. Questo è un po' il tenore di tutti. Piano salva euro, borse record per il Corriere. Per il giornale, pericolo scampato, ora i tagli. Per Repubblica, il piano UE fa volare le borse. Per il manifesto, il banco vince, con la foto del simbolo dell'euro e i fuochi d'artificio. Il piano europeo fa volare le borse, anche il titolo d'apertura del Messaggero. Questi titoli delle aperture dedicate a questo tema. L'intesa europea riporta dunque la fiducia sui listini, come spiega molto bene a pagina 3 del Sole 24 Ore. C'è anche l'analisi consueta di Walter Riolfi, un più 11,28% di Piazza Affari. Non si registrava una chiusura così positiva dal 13 aprile dello scorso anno, fanno sapere gli statistici. Anche se ora si comincia a analizzare di più che cosa è successo per salvare l'euro. Tremonti, ora l'Europa c'è, a pagina 5 del Sole 24 Ore. Eccolo lì, l'intervento di Roma. Allora, viene spiegato molto bene il protagonista di questa vicenda, oltre ovviamente al ministro Tremonti, chi è? È Vittorio Grilli. Vittorio Grilli, vale a dire il direttore generale del Tesoro, che ha ispirato quel documento, quel famoso piano B, un documento di 3 pagine solo, un preambolo sugli obiettivi dell'Unione e poi un'analisi in 4 punti e poi la proposta di salvataggio. Tra l'altro tutto questo è disponibile sul sito del Sole 24 Ore, dunque lo potete anche leggere. Questo piano B, documento preparato dal Tesoro italiano, che in qualche modo ha sorpassato quel piano A. Allora, l'opzione A, che cos'erano sostanzialmente? I prestiti bilaterali in aiuto alla Grecia. I prestiti bilaterali, questa era l'opzione voluta soprattutto dalla Germania. A questi prestiti bilaterali invece l'Italia si è opposta fin da subito e ha proposto questa opzione B messa a punto dal direttore generale del Tesoro, Vittorio Grilli, appunto. Che cosa prevede questa opzione B? Istituisce un veicolo emittente di bond per aiutare i paesi dell'Eurozona in crisi. Fa perno sul nuovo ruolo della Banca Centrale Europea. È quello che, su cui ha puntato il ministro Tremonti, è la linea che alla fine è passata, questa proposta italiana, che poco a poco ha scalzato la proposta A degli aiuti bilaterali. Anche i tedeschi si sono convinti, si è trovato una sorta di compromesso tra le due proposte, ma certo tutti mettono in risalto questo ruolo di questo documento proposto dal governo italiano. A questo proposito e su questo tema c'è l'intervista che Repubblica fa a José Manuel Barroso, vale a dire il presidente della Commissione Europea. Abbiamo salvato l'euro, adesso niente esitazioni, servono nuove regole. A pagina 3 di Repubblica, è un accordo che ci permetterà di rispondere in modo coordinato e ci assicura che qualsiasi tentativo di attaccare uno Stato membro è destinato al fallimento, dice Barroso. La Commissione comunque non ha mai demonizzato il mercato, dunque non è tutta colpa della speculazione. Ora però l'euro è più forte. Sulle colpe dell'euro, dice Barroso, no, l'euro è un fatto straordinario, è straordinariamente positivo per tutti, ma in alcuni paesi ha creato quella che io definisco l'illusione della prosperità, ha allentato lo stimolo a migliorare la propria competitività economica perché ha fatto venir meno la pressione della svalutazione. Questo è un po' il tema che anche oggi viene analizzato con un intervento, per esempio, l'editoriale di Guido Gentili in prima pagina del Sole 24 Ore, cioè: non si vuole che questo intervento ennesimo per salvare dal punto di vista finanziario una situazione che rischiava di essere compromessa porti a dire vabbè, ci siamo salvati. Attenzione, perché se questo è l'atteggiamento, tra 10 anni, se non prima, ci ritroviamo in una situazione simile. Cioè, questo è stato un salvataggio, ma ora serve fare qualcosa. Serve per esempio tagliare le spese, Zapatero l'ha annunciato in Spagna, serve fare qualcosa di concreto, serve fare le riforme, se no i paesi si ritroveranno appunto a capo. Dopo la grande paura, scrive Guido Gentili, il varo del piano europeo che impegna 750 miliardi a difesa dell'euro, il brindisi globale delle borse, è legittimo tirare il fiato. Di più, fatto assai raro della giovane storia d'Europa, suona convincente, pure in un quadro di difficoltà e contraddizioni profonde, La duplice risposta fornita dai poteri politici e monetari europei. La soddisfazione per il pericolo scampato non deve però fare abbassare la guardia. È stato alzato un muro di difesa finanziario dagli attacchi di speculazione che da Grecia, Portogallo a Spagna avrebbero potuto polverizzare il sistema dell'euro. Non è nata una nuova Europa che abbia messo al bando le vecchie, le bandiere, soprattutto i vizi nazionali. Sotto questo profilo la partita politica comincia ora. Ecco qui Guido Gentili che scrive in prima pagina del Sole 24 Ore. A proposito di partita politica, oggi posso permettermi la politica quasi di saltarla a pie pari, perché se bisogna parlare del dibattito sulla proposta di Casini, che ha detto ci vuole un governo di emergenza, un governo tecnico di salvezza nazionale, di salute pubblica, come è stato definito, è stato bocciato un po' da tutti, ma certo qualcosa si muove, ma sono, come dire, per esempio, cosa fa il Riformista? Mette la foto di Scajola, Bondi, Bertolaso, cioè due ministri e un sottosegretario, Verdini, il coordinatore del PDL, e due persone che si coprono con un foglio bianco, come dire, chi sono i prossimi? Un ministro al giorno. Berlusconi ora teme così che ci sia un accerchiamento, che ci siano i servizi, che si vada al rimpasto. Vabbè, insomma, è la politica chiacchiericcio. Bertolaso che respinge le voci di dimissioni, l'inchiesta, ma no, nessuna fuga anticipata. Certo c'è una via di uscita per la mia fine alla protezione civile, come già volevo fare un anno fa, più di un anno fa. Poi c'è stato il terremoto che ha fermato le lancette di questo percorso naturale. Insomma, c'è chi? Il coiffeur Miciche, il coiffeur, ricordate ieri, quello che è stato messo a dirigere, è stato nominato a dirigere il restauro degli Uffizi e che, secondo le accuse del Ross, è un parrucchiere. Io parrucchiere, l'ingegner Riccardo Miciche risponde al telefono furibondo. Sono tutte sciocchezze, adirò le vie legali. Clic, finisce così la telefonata. Sostanzialmente scioglie il dilemma il suo socio Maurizio Perseu, che dice: sono io il parrucchiere. Lui è un ingegnere veramente. Io sono il parrucchiere, lui fa l'ingegnere, ma siccome ho aperto una società di parrucchiere, io ho il 99% delle quote societarie. Ho deciso però, per la stima e l'amicizia che ci lega, di regalargli un punto percentuale societario della commandita semplice, di cui sono titolare io al 99%. Da qui il mistero del cosiddetto parrucchiere. Parla anche il fratello di questo ingegner Miciche, che viene citato dal Ross come facente parte di una società che viene citata in uno dei pizzini di Bernardo Provenzano. Insomma, una vicenda quindi anche incredibile. E il fratello dice: ma che c'entro io con la mafia? Solo la parola mi terrorizza, io non voto neanche, non ho mai avuto un appalto con una impresa pubblica. Insomma, si difende, ecco, questo nell'articolo di Fabrizio Caccia a pagina 10 del Corriere. Ma insomma, la politica è talmente ferma che il tema dominante per il secondo giorno è il divorzio tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario. È inutile. Questo è, tanto che Libero ci fa l'apertura di prima pagina. Il miglior affare di Silvio. Ci sono i disegni di Silvio Berlusconi e Veronica Lario. The end, la fine, pagina 2 e 3. Un assegno e addio. Certo che Libero la butta subito in politica. Si potesse fare confini. Un assegno e via. Si potesse fare confini. Se bastano 5 ore di tribunale per accordarsi, forse è il caso che lo facciano anche i due separati in casa del PDL. Mentre invece tutti gli altri giornali la prendono molto seriamente. Una pagina intera del Corriere, Berlusconi Veronica, l'ipotesi di accordo. C'è anche l'intervista a Patrizia Pozzi. Chi è? Patrizia Pozzi è l'architetto che ha ristrutturato tutta Villa Belvedere a Macherio. È la villa dove è cresciuto, dove sono cresciuti i figli di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, e che rimarrà a Veronica Lario. Questo era uno dei punti importanti dell'accordo. Oltre alla villa c'è l'assegno, 300.000 euro al mese, 300.000 euro al mese, si vocifera 300.000 euro al mese, questa è la cifra. Iena di Riccardo Barenghi a pagina 3 della Stampa, Berlusconi, beato chi se lo divorzia. Mentre il titolo forse più azzeccato del quotidiano nazionale, 300.000 euro al mese, la ripeto la cifra, Veronica, vecchiaia sicura. E allora, questo per quel che riguarda il divorzio tra Berlusconi e Veronica Lario. C'è tutta una polemica legata a quello che ha detto il sindaco di Milano, Letizia Moratti, ieri. Sostanzialmente ha detto è normale, è del tutto evidente che un clandestino, se è clandestino, normalmente delinque, dato che non ha un lavoro regolare. In prima pagina di Libero Maurizio Belpietro fa un editoriale in difesa. Evviva la Moratti, anticlandestini. Scrive Belpietro: Letizia Moratti manifesta in genere la stessa allegria di un addetto delle pompe funebri nel giorno dell'esequie. Questo non la rende molto simpatica. Ciò premesso, sgombrato il campo dal dubbio chi la trovi amabile, non mi resta che difenderla. Perché, dice Belpietro? Perché la Moratti, che non è un mostro di affabilità, e siamo d'accordo, ma non è un mostro, punto e basta. Questo no. Che ha detto di tanto incredibile che i clandestini abitualmente delinquono? E dove sta la novità? La prima cittadina meneghina non ha rivelato nulla che già non si sapesse e non fosse documentato da statistiche universitarie anche alla Cattolica dovrebbero conoscere. Ieri la Cattolica parlava ed è stata un po' fischiata. Basta leggersi un paio di ricerche del sociologo Marzio Barbagli, studioso bolognese di rigorosa fede post-comunista. La cosa però curiosa è che lo stesso Barbagli fa un'intervista a Repubblica nella quale smentisce, insomma, queste parole, o meglio, dice non è così come dice la Moratti. La pagina è quella 10, clandestini bufera sulla Moratti, normalmente delinquono. E Vladimiro Pol che cosa fa? Intervista proprio Marzio Barbagli, che è considerato unanimemente il sociologo maggior esperto di immigrazione e sicurezza in Italia, e che dice no, si fa confusione sui numeri. È indubbio ed è certo che gli stranieri nel nostro paese commettono una quantità di reati sproporzionati alla loro presenza numerica. Ma quello che sappiamo in verità è solo il numero dei denunciati. Per esempio, facciamo qualche cifra. La quota degli stranieri sul totale dei denunciati ha toccato nel 2007 il 24% degli omicidi volontari, il 40% delle violenze sessuali, il 32% per gli scippi, il 52% per i furti in appartamento, il 68% per i borseggi. E ancora, nello spaccio, oltre un denunciato su tre è immigrato. Se si guarda però al complesso dei reati, secondo i dati Istat, il tasso di criminalità degli immigrati regolari è solo leggermente più alto di quello degli italiani, tra l'1,2 e l'1,4% contro lo 0,75% degli italiani. Non esiste inoltre un legame tra aumento degli immigrati e aumento dei reati. Tra il 2001 e il 2005 gli stranieri sono cresciuti di oltre il 100%, mentre le denunce nei loro confronti solo del 45,9%. Certo, dice Barbagli, forse la frase messa così è un po' tranchant, però ci sono delle verità e anche delle cose non vere a vedere i dati. Spiegate a Fede che Saviano non è di sinistra. L'editoriale, o meglio il commento a doppia firma, è di Filippo Facci e Antonio Socci, in prima pagina su Libero. Allora, premessa, un paio di giorni fa Emilio Fede al TG4 dice basta, di Saviano non se ne può più. Non è lui che ha scoperto la camorra. Ci sono magistrati che l'hanno combattuta e sono morti. Lui è super protetto e giustamente. Qualcuno gli ha offerto pure la cittadinanza onoraria. Di cosa non si capisce? È successo a Milano. Saviano ha scritto dei bei libri, ma lo ha fatto tanta altra gente senza fare clamore. Insomma, ha rotto sostanzialmente. Ebbene, oggi Filippo Facci e Antonio Socci scrivono così: spiegate a Fede che Saviano non è comunista. Regalare alla sinistra Saviano sarebbe una delle sciocchezze più tragicomiche che il centrodestra potrebbe fare. Eppure ci sta provando in ogni modo. In queste ore ci si è messo pure Emilio Fede, che si è lanciato con un'invettiva così sgangherata da rendere imbarazzante perfino parlarne. E poi Socci e Facci scrivono di Saviano: dovrebbe essere considerato da tutti un simbolo di libertà, una voce nobile, un giovane scrittore che ha rischiato e rischia la vita per innescare una rivolta nella coscienza della sua gente, la stessa che animò grandi scrittori come Salamov e Solzhenitsyn contro l'impero della menzogna comunista. Dispiace che anche Berlusconi sia caduto nell'errore di considerare la letteratura come Gomorra o la serie della Piovra solo una, come una pessima pubblicità dell'Italia. Gomorra, invece, è un'inchiesta coi controfiocchi che ha rivelato al mondo ciò che neanche tanti giornalisti italiani sapevano, mentre la Piovra è la caricatura, una fiction. Quello che forse Berlusconi dovrebbe sapere soprattutto è che Saviano non è un fazioso o un fanatico, è tra i pochi intellettuali che hanno riconosciuto i successi del governo nella lotta alla camorra. Saviano, che tra l'altro ha rivelato gran stoffa letteraria, straordinario talento giornalistico in questa rivolta morale, ha scommesso la sua vita fin dal principio. Ora, ad appena 31 anni, vive da fuggiasco, super blindato, prigioniero, senza una vita privata. Qualche volta ha ceduto e ha detto non lo rifarei. Merita almeno il rispetto di chi sta con il culo al caldo. Così Filippo Facci e Antonio Socci in prima pagina di Libero. Ma sentite Emilio Fede oggi in una intervista pirotecnica al Giornale, che cosa ribadisce? Saviano un eroe? È diventato ricco e non dà un euro alle vittime di mafia. Non capisco tanto clamore, lo ripeto da tempo. Anch'io vivo sotto scorta, non mi sento un eroe, non vado in giro a vantarmene. Ma lui vive sotto scorta perché la camorra lo ha minacciato a morte. Ma mica l'ha scoperta e denunciata lui la camorra, dai. Per favore, io dico solo che c'è un eccessivo clamore sul suo ruolo di servitore anti-camorra. Ammetterà che, insomma, la situazione è difficile. Voglio dire che il nostro paese è contro la mafia anche senza Saviano. E poi lui che fa? Gli straguadagni dei suoi libri o dei suoi film li devolve per caso alle vittime? E allora che la smetta di rompere. Rompere? Chiede Paola Setti. Sì, a me m'ha rotto. Gli hanno pure dato la cittadinanza di Milano. Ma cittadinanza de che? E poi, insomma, attacca, vabbè, lui storpia i nomi, no? Chi è? Sì, mi ha attaccato Leo Luca Stracciaquiglio, Barba Lunga, che sarebbe Leo Luca Orlando. Ma glielo batto io un colpo, ma chi è sto politico fallito? E poi ancora di Saviano, ma dai, una volta arrivò a testimoniare con la scorta, i carri armati, gli incrociatori, tutto per dire che serve il rigore dello Stato, e ci voleva lui a dirlo. Vabbè, insomma, come si chiama? Emilio Fede, esuberante, spettacolare, pirotecnico, inarrestabile contro Roberto Saviano. Ha rotto, a me m'ha rotto, questo dice Emilio Fede. Voglio andare alle segnalazioni conclusive di cronaca. Questa vicenda sta esplodendo un po' su tutti i giornali. Io ho visto ieri Chi l'ha visto. Hanno riproposto questo video di questo questo arresto veramente con le maniere brusche di tale Stefano Gugliotta, che dice: io mi sono trovato nella zona dell'Olimpico il giorno della partita Roma-Inter finale di Coppa Italia, sono stato picchiato nella caccia agli ultra, ma io non c'entravo niente, sono sceso a prendere il mio motorino. Il giovane è preso a manganellate e arrestato, colpito senza motivo. La procura apre un'inchiesta, lo trovate sulla Stampa, sul Messaggero, anche un articolo molto, un commento molto duro di Paolo Pombeni in prima pagina del Messaggero, che dice: ancora peggio, veniamo a sapere che alla fine di questo arresto è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, oltre al danno del pestaggio, la beffa di chi si crede al di sopra della legge e usa le norme giustamente poste a sua tutela. Dice Pombeni: certo, ci rendiamo conto della frustrazione che colpisce gli uomini in servizio di ordine pubblico, ma non è col farla pagare al primo che passa, col pestaggio feroce di quello che hai la fortuna di cogliere isolato fuori dal branco, che si sana la situazione. Insomma, in cella dopo il pestaggio intervenga il governo. Anche sul Corriere della Sera sono soprattutto i radicali, l'Italia dei Valori, che si stanno mobilitando per questo Stefano Gugliotta. C'è anche un'altra vicenda apparsa ieri a Chi l'ha visto, sempre avvenuta dopo quella partita. Una persona che è stata arrestata dalla polizia, poi ha cercato di fuggire e si è vista una macchina per la verità una macchina civile, che lo ha investito per fermarne la fuga, per stopparlo, insomma. Chi c'era su quella macchina, visto che era una zona diciamo dove operava la polizia, era una macchina civile ma su cui c'erano agenti di polizia, questo è quello che ci si chiede. Due citazioni finali. Io, incredibilmente, lei lo respinge, le dà fuoco, e questa è una vicenda purtroppo che avviene spesso. 56 anni, Marco Langellotti ha dato fuoco a una ragazza che lo aveva respinto. La vicenda incredibile è questa. Volete sapere quante condanne aveva, come abbiamo sentito anche in GR24? 26 condanne passate in giudicato, tra cui stupro per 2 volte, una nei confronti di una minorenne, rapina, aggressione, estorsione, minacce. 26 volte condannato, libero. E ha dato fuoco a 2 ragazze. Ci fermiamo qui.